Che fretta c'è per chi non va a dormire, perché non sa dormire. Che ridere, mettere un film e uscire, tanto sappiamo già la fine. Siamo gli ultimi, c'è solo il cielo dei semafori, questi palazzi vuoti, scheletri, tutto può succedere. Perché siamo nascosti sotto l'eclissi per una notte, per due secondi, ogni tre sorsi una lacrima cade dagli occhi. Siamo rimasti nascosti sotto l'eclissi per una notte, due cani sciolti, pochi discorsi da cinema. Io ti rincorro, tu mi rincorri, sempre la stessa storia. Dai, siamo gli unici in questa città che non balla al buio. Ma dai, non ci vede nessuno qua. Siamo rimasti nascosti sotto l'eclissi. Lo vedi che non siamo fatti per mentire, ma quante cose non riusciamo a dire. Pensavo di avere più fiato, pensavo un po' troppo, lo so, ma che bello essere sbagliato, l'ho capito solo ora che siamo gli ultimi. C'è solo il giallo dei semafori, questi palazzi vuoti, scheletri, e tutto può succedere. Ora che siamo nascosti sotto l'eclissi per una notte, per due secondi, ogni tre sorsi una lacrima cade dagli occhi. Siamo rimasti nascosti sotto l'eclissi per una notte, due cani sciolti, pochi discorsi da cinema. Io ti rincorro, tu mi rincorri, sempre la stessa storia. Dai, siamo gli unici in questa città che non balla. Una lacrima, io ti rincorro, tu mi rincorri, sempre la stessa storia. Dai, siamo gli unici in questa città.